sono le ore 18 e 19 di lunedì 27 ottobre 2025 e oggi sono riuscito a prendere 2 ore di permesso e a partecipare a un convegno organizzato presso la facoltà di architettura, che però mi stava molto a cuore perché si parlava del Macro, museo verso il quale ho una specie di ossessione che poi infliggo a chi mi ascolta qui su questo podcast. Sono affezionato al Macro per varie ragioni, soprattutto perché è un museo che ha funzionato come reagente del sistema, soprattutto del sistema dell'arte dominante, cioè vedendo come poi il sistema reagiva alle varie direzioni artistiche si capivano cose che altrimenti non si sarebbero capite, forse perché è l'unico museo che in tutti questi anni, come è stato detto anche oggi, si è posto il problema del ruolo del museo, anche al di là delle, diciamo, eleganti e comunque bisticciose teorizzazioni e che sono frutto delle assemblee dell'ICOM, no? Dove poi si perviene a queste definizioni, sempre anche quelle molto molto litigate, di cosa debba essere un museo, a che cosa serva nel 2025, eccetera eccetera. Ecco, a questo convegno hanno partecipato 3 persone che io stimo moltissimo. Intanto Cristiana Perrella, che sarà la nuova direttrice artistica del Macro, in realtà già lo è e già sta lavorando a una stagione che doveva cominciare a ottobre, inizierà ai primi di dicembre, e ha, diciamo, raccontato un po' la storia di questo museo agli studenti di architettura e poi è andata un po' più in profondità su quello che sarà il Macro nei prossimi anni, nella sua visione, ed è per quello che mi sono scapicollato per andarla ad ascoltare. E poi c'erano anche presenti Orazio Carpensano, che naturalmente è, insomma, un architetto un po' maverick, un po' fuori dagli schemi, fuori dai movimenti più comodi dell'architettura contemporanea, e anche lui, diciamo, che ho conosciuto spesso durante la stagione, le stagioni del Macro, in particolare la penultima stagione del Macro. E poi era presente Giorgio De Finis, che di quella penultima stagione del Macro fu il mattatore, il direttore artistico, lui stesso dice l'autore, gestione quella, diciamo, di questi 14 mesi a cavallo tra il 2018 e il 2019, alla quale partecipai anch'io come tantissimi romani, artisti e non artisti, intellettuali veri o autoproclamati, semplici, curiosi, un grande popolo di più di 330.000 persone che non solo visitarono, ma proprio parteciparono a ciò che il Macro in quel periodo proponeva. Ecco, dicevamo, Cristiana Perrella intende prendere il meglio sia di quell'esperienza e anche dell'ultima esperienza, quella di Luca Lopinto, che è opposta a quella proposta da De Finis, è stata opposta il Museo per l'Immaginazione Preventiva, citazione molto importante, che trasformò sostanzialmente le sale del museo in una sorta di rivista da sfogliare, con un rigido controllo editoriale, un'attenzione molto, molto forte alle avanguardie e soprattutto di respiro internazionale, cosa che il Macro negli ultimi anni aveva forse un po' perso. Ed ecco, interessante appunto notare come il sistema intorno al museo ha reagito, perché come un solo uomo tutta la stampa, tutta la critica ufficiale condannò De Finis e il suo Macro asilo partecipato, aperto, ospitale, inclusivo, e allo stesso modo come un solo uomo tutta la stampa, tutta la critica esaltò gli anni di Lopinto, editoriale, autoriale, autorevole, normativo, non saprei come altro definirlo. Ora, io devo dire la verità, per ragioni affettive sarei portato a schierarmi nettamente da una parte, però voglio provare a fare uno sforzo. È evidente che Luca Lopinto è un grandissimo professionista e viene da da esperienze anche importanti, è stato direttore della Kunsthalle a Vienna, è giovane, ha chiaramente una sensibilità anche verso ciò che è nuovo, che forse la mia generazione non può capire, e quindi io credo che, diciamo, in modo un po' più un po' meno intenso, perché insomma sono stati 5 anni quelli di Lopinto, con in più l'interruzione della pandemia, e solo 14 mesi quelli di Finis. Beh, anche Lopinto ha seminato molto bene in quella fase, e proprio per quello, appunto, noi forse dovremmo porci una domanda: ma come mai c'è sempre questa unanimità? Non c'è un po' da preoccuparsi quando tutti sono sempre d'accordo nel condannare A e nell'esaltare B? Ecco, questo dovrebbe preoccuparci più di ogni altra cosa, io credo. E apprezzo molto il fatto invece che Cristiana Perrella, che avevo già conosciuto ai tavoli del Rebirth Forum, organizzati diciamo nell'ambiente di ispirazione, diciamo, pistolettiana, alla Casa dell'Architettura qualche tempo fa, ecco, Cristiana Perrella cerca di superare intanto le dicotomie, poi le polarizzazioni, e anche stavolta ha ribadito che intende fare qualcosa che non deve necessariamente riflettere la sua visione al 100%, la sua personalità, la sua persona, cioè qualcosa su cui deve per forza ricadere in qualche modo la propria immagine, il proprio nome. Naturalmente ci si assume una responsabilità, perché questo è ovvio quando si riceve un incarico pubblico, ma senza per questo dover fare lo spoil system di quello che è appena passato. Anzi, si cerca di recuperare il buono e soprattutto di farsi suggerire le linee guida dall'architettura. Abbiamo, diciamo, ascoltato la viva voce di Cristiana Perrella, quelle che saranno queste linee che già aveva descritto in alcune interviste, che uscirono anche sui giornali, le ha ribadite, però fornendo anche qualche particolare in più. Ha ribadito, per esempio, che avremo le grandi mostre, quelle con un respiro più lungo, prevalentemente nell'area nuova del macro, quella progettata, disegnata da Odile Deck, mentre negli edifici rimasti, diciamo così, più aderenti all'aspetto iniziale, cioè quello della fabbrica della birra Peroni, ecco, in quegli edifici ci saranno invece tutta una serie di servizi, ma anche iniziative artistiche e culturali, non so quanto esattamente aperte al pubblico, cioè non ho capito esattamente quali saranno le parti del museo per cui bisognerà staccare il biglietto e quali no, però insomma ci saranno una serie di cose che cambieranno spesso, che cambieranno ogni settimana, addirittura, ha detto, ogni giorno. Questa è un'ottima notizia. L'altra ottima notizia nuova, che non avevamo ancora sentito, è che lei si sta impegnando per allungare gli orari di apertura, perché dice giustamente le scuole non possono pensare di visitare il macro dopo mezzogiorno, per dirne una. E poi, se si vogliono fare attività rivolte ai giovani, non puoi pensare di chiudere sempre il museo alle 19, bisognerà fare delle aperture serali, come una volta si facevano per esempio al Mattatoio, quando il macro aveva la sua seconda sede a Testaccio, si chiamava a Mattatoio, si chiamava Macro Future, lo ricorderete. Ecco, qualche novità sotto questo profilo è emersa. In sostanza, noi avremo un museo per la città che parla, diciamo, in modo più esplicito alla città, nella zona del cortile coperto che dà su via Reggio Emilia, e naturalmente i piani espositivi che conosciamo. Ci sarà, questo lo ha ripetuto, la biblioteca, ci sarà questo cinema all'inizio, e questa è un'altra novità, aperto il venerdì e la domenica, ma poi tendenzialmente si proverà a tenere questo cinema aperto tutti i giorni, e anche questo mi sembra un trend interessante, cioè il cinema diverso, diciamo così, dalla multisala governata dalla grande distribuzione cinematografica, è già un fenomeno riemergente, no? Ci sono dei cinema che stanno riaprendo, cinema di quartiere, se ne parla da un po', si parla del fatto che a farli funzionare bene sono realtà molto dinamiche, molto, molto vicine a un cinema, diciamo, meno omologato, senza dover per forza ripescare l'idea del cinema de sé, però sicuramente si può anche pensare a un cinema più di ricerca, forse un pochino più ambizioso, senza piombare nelle atmosfere fantoziane eisensteiniane, no? E quindi così come per esempio mi è capitato di vedere a Borgo Carige in Maremma un cinema che persino in inverno riesce a fare 3 spettacoli al giorno, il nuovo cinema Tirreno, così come a Roma riaprono delle sale, anche se ancora non hanno guadagnato i titoli proprio dei giornali, e anche il macro vuole partecipare a questo trend evidentemente, e ci sarà una programmazione cinematografica naturalmente molto attenta a Roma, ai giovani cineasti romani, soprattutto il venerdì e poi invece la domenica al grande cinema su Roma, con tutta una serie di rassegne, insomma quella sala che effettivamente non aveva, era un po' senza arte né parte, perché era un doppione dell'auditorium, non si sapeva bene cosa farne. Provò Lopinto a farne una sala per il cinema a 16 mm in pellicola, per carità, altra bella iniziativa ambiziosa, però anche un po' sparuta, perché queste proiezioni erano disseminate, ce n'era una ogni 3 mesi, mentre sai, prima eravamo abituati al fatto che in quella stessa sala, anche un po' disadorna e fuori contesto, però si alternavano in proiezioni, performance, interventi di associazioni, cioè prima c'era un certo fermento di cui si sentiva un po' la mancanza. Ecco, il fatto di cercare di rianimare questo spazio effettivamente, secondo me, potrà essere un'altra chiave vincente nella gestione Perrella, che ha confermato che avrà ancora la sala dell'ascolto, quella che con Lopinto era la sala della musica, ma aperta anche alla parola, quindi aperta alle parole dei poeti, per esempio, e aperta alle voci di Roma. Tra l'altro tutto questo succede mentre il comune lancia un bando addirittura per giovani podcaster che dovrebbero parlare di Roma da un punto di vista diverso, più diciamo così, più obliquo, come è sempre lo sguardo appunto di chi per esempio va in piazza a protestare, quasi ignorato dal resto della città. Ecco, io penso che l'idea di non limitarsi a usare la sala dell'ascolto come sala della musica, con Lopinto abbiamo sentito molta musica elettronica, molta musica sperimentale, e sicuramente ci è piaciuto, però ancora una volta, vedete, si prova ad estendere quell'idea, no? Senza ucciderla, senza per forza dire che qualcosa che magari ha già una firma debba essere, proprio perché magari la firma è ingombrante, quella del curatore precedente, debba essere eliminata, no? Questo secondo me è un errore che non va ripetuto, e sono molto molto contento che Perrella non intenda ripeterlo. Poi ci sarà una sala video e una rassegna, tra l'altro dedicata a un importantissimo videoartista, cioè G. Andragi, di cui abbiamo già visto delle cose. Anche questa è una novità, non sta ancora scritto da nessuna parte, ma ve lo posso anticipare: ci saranno delle rassegne di videoarte in questo speciale spazio. Poi ci sarà la Project Room, che non sarà come una volta con De Finis al piano terra, ma sarà in uno dei piani della birra Peroni, dell'ex stabilimento Peroni, dove si ospiteranno progetti espositivi, incontri eccetera, che riguardano però non necessariamente l'arte, ma anche tutto quello che ruota intorno. Quindi c'è sempre una chiamata all'interdisciplinarità. Io l'ho trovato molto molto interessante, perché vorrà dire che avremo a che fare ancora con letteratura, cinema, musica, e non solo ad arti visive. Ci saranno le arti performative, probabilmente ancora una volta sul tetto dell'Auditorium Rosso, nella parte nuova. Insomma, un progetto comunque ambizioso, perché allungare gli orari per esempio significa allungare giustamente gli stipendi, il personale, e quindi considerato il budget tutt'altro che esaltante del macro, di cui è stato ricordato proprio durante questo incontro come il budget fosse una delle dolenti note. All'inizio si è scommesso molto, no? Con la primissima gestione di Ecker, l'apertura del 2010 insieme al Maxi, no? Che fu inaugurato proprio nel 2010, addirittura l'idea di far dialogare due realtà, una che dipende dallo Stato e l'altro che dipende dal Comune, cioè ci voleva davvero molto ottimismo per farlo, pensando per esempio appunto che lo Stato e il Comune di Roma avrebbero avuto più o meno la stessa conduzione politica. Non è stato così, e infatti come sappiamo adesso i due musei viaggiano in direzioni assolutamente divergenti. Il Maxi, come mi capita di ripetere, era un po' ridotto a una sorta di giocattolone innocuo, senza più la minima visione sociale, della ricaduta sociale del momento espositivo, del momento culturale. E poi soprattutto Maxi, questo mi dispiace dirlo, completamente ripiegato sulle logiche del business, ormai quasi congressuali, questi spazi sempre affittati, perché sono comunque spazi di prestigio. Poi anche la presentazione del progetto di un nuovo grande Maxi, sì, interessante per alcuni versi, però ancora in cerca d'autore, mi sembra. E poi lasciatemi dire un bruttissimo segnale, proprio degli ultimi giorni al Maxi, mi tocca dirlo, cioè proprio mentre Perrella inaugura lo spazio video nella parte che ci immaginiamo più aperta, più pubblica del macro, il Maxi chiude il suo ultimo vero spazio culturale pubblico, che era la videogallery. Cioè, già nel foyer non si vedono più mostre, c'è solo la sala studio e ci sono queste belle statue, belle installazioni. Ma la videogallery, che per tanto tempo è stato un posto magico dove uno in qualsiasi momento poteva andare ad essere investito da immagini importanti, con dietro anche un lavoro di curatori specializzati, art film, le rassegne appunto di video collegate agli artisti che esponevano nelle zone a pagamento, per esempio, ecco, l'idea di proiettare i film di Cao Fei gratis, naturalmente, mentre poi Cao Fei esponeva nei grandi spazi delle gallerie 2 e 5, era davvero, no, il segno della volontà di parlare alla città, no? Di invitare le persone poi anche a fare il biglietto, e credo che molte abbiano fatto il biglietto proprio perché appunto la zona pubblica era una zona che presentava in modo molto invitante quello che poi succedeva negli altri spazi. È un po' l'idea della vecchia biglietteria dell'auditorium, che quando era proprio al centro del complesso ed era uno spazio pubblico dove c'era anche un pianoforte, un posto dove tutti andavano anche solo per fare due passi e sfogliare due libri in libreria, però avere la biglietteria lì era molto allettante. Molte persone facevano il biglietto alla fine perché scoprivano magari che ci sarebbe stato Sokolov tra due settimane e che sarebbe costato magari solo 20 euro, senza pagare diritti di prevendita, senza impazzire sul web. Hai lì comunque la biglietteria, vedi che non c'è coda, cosa fai? Fai un biglietto, ecco. C'è anche questa logica. Adesso non vorrei passare per quello che non pensa mai alle entrate e al consumo, cioè non è che il consumo va demonizzato, il consumo commerciale naturalmente dell'offerta di un museo anche pubblico, per carità, o di uno spazio come l'auditorium, è fondamentale che ci sia, ma appunto il famoso spazio pubblico, che invece è sempre più sacrificato, l'abbiamo detto nella chiusura della videogallery, quello è un posto che è un biglietto da visita, cioè è qualcosa che poi ti invita poi a esplorare sempre di più, perché ti prende, ti fa capire il valore di stare in un luogo, il museo, che è una eterotopia, è un posto dove succedono cose che non ti aspetti, è un altrove, è quella la grande ricchezza. E se non hai la minima, diciamo così, esperienza libera di questa eterotopia, perché mai dovresti essere invogliato a pagare poi per entrarci dentro un po' più a fondo? Ecco, il macro, anche lì, gli spazi pubblici saranno dei luoghi di presentazione anche dell'offerta, cioè ci saranno dei ganci che poi uno potrà decidere di approfondire dentro il museo o magari anche tornando a casa consultando internet, in modo a quel punto intelligente, perché non ti sei fatto, diciamo così, consigliare da quello che dice uno schermo che è interessato perché deve rivendere le tue interazioni. No, ti sei fatto, diciamo così, consigliare comunque da una visione di curatela. Ecco, qui arrivo poi al punto finale di questa giornata che è stata straordinaria. L'ho interamente registrata. Quando ci riuscirò la pubblicherò, sono 2 ore, non sarà semplice, veloce, comunque lo farò e vi invito tutti ad ascoltarla, perché dopo questa interessantissima presentazione di Cristiana Perrella c'è stato anche un dibattito, tra l'altro non previsto. Cristiana ha provato a fare delle domande agli studenti che erano molto reticenti, così Orazio ha iniziato a fare domande lui, a dire cose lui. E insomma, a un certo punto Giorgio De Finis, che era accanto a me e aveva qualcosa, diciamo così, che voleva dire, si vedeva chiaramente perché si era un po', diciamo così, stranito, in un momento in cui Cristiana Perrella, descrivendo la sua gestione, la definì anti-autoriale, no? Mentre appunto Giorgio risponde in modo abbastanza perentorio: no, la mia era un'esperienza autoriale, io sono un inventore di musei, esisteva un dispositivo, ho inventato il dispositivo che abilitava determinati, diciamo così, contesti relazionali della fruizione culturale. E probabilmente nasce tutto da un equivoco. Cristiana parlava, secondo me, di operazione anti-editoriale, non di operazione anti-autoriale. Nessuno contesta, naturalmente, che nel metodo ci fosse parecchia autorialità anche nella invenzione del macroasilo di De Finis. Naturalmente la rinuncia era più nel merito che nel metodo, cioè nel fatto appunto di aprire il museo a qualsiasi proposta che si autodefinisse artistica. E da lì nacque quella specie di Elsa Poppin che aveva il grossissimo merito di farci scoprire anche tante cose che non ci piacevano, ma di poterlo decidere noi, e non quindi di entrare in uno spazio appunto al quale devi riconoscere a prescindere una superiore autorevolezza e in base alla quale, se tu non avessi capito o apprezzato qualcosa, la colpa sarebbe sempre stata tua. No, la cosa bella del macroasilo e di questa invenzione autoriale nel metodo di Giorgio era che alla fine si abilitava per la prima volta, si invitava a mettere in funzione per la prima volta lo spirito critico della persona, libera da questo, del visitatore, del cittadino, ecco, proprio in quanto cittadino libero, no, anche da questa imposizione autoritaria del curatore. Quindi, diciamo, interviene Giorgio, risponde Cristiana, che poi cerca di raccogliere anche lì, giustamente, pareri dagli studenti che però nel frattempo si erano a loro volta un po', diciamo, erano già timidi, però poi hanno parlato ancora di meno. È stato uno scambio di battute bello, perché poi è fatto tra persone che si stimano e persone che continueranno a incrociarsi, a lavorare, finalmente un confronto appunto nel merito di una questione completamente ignorata nel dibattito culturale, e cioè che cosa serve un museo, che cos'è un museo, se si racchiude dentro quattro mura, se ormai diventa qualcosa che è sul web, e se è sul web, aggiungo io, è quanto è importante che abbia uno spazio indipendente e non normato da logiche economiche, algoritmi e piattaforme private. Quanto tutto questo si può negoziare anche all'interno di una piattaforma privata per andare alla ricerca del pubblico, perché questo è quello che vendono le piattaforme private, e quanto invece il sito possa diventare forse proprio un posto da dove ripartire per ridare dignità a internet, per non sprecare internet, per mutuare questo saggio che ho scritto ormai 3 anni fa. Tante belle domande, risposte non lo so, cioè già ho impiegato mezz'ora per fare le domande, vi risparmio poi dopo le mie possibili ipotesi di risposta, è meglio trovarle ciascuno per conto proprio. Se avete avuto la forza di arrivare alla fine di questo lungo pendo delirio, magari potrete trovare anche la forza per ascoltare, forse a puntate, le 2 ore della chiacchierata di oggi.